Friuli nel mondo, 107ª trasmissione dedicata agli emigrati. Festival 1962 della canzone moderna friulana. Nella meravigliosa cornice del Parco Giacomelli di Pradamano, a cura della locale Proloco, si è svolta l'edizione 1962 del Festival della canzone moderna friulana. I testi poetici friulani e i componimenti musicali sono il frutto della passione e dell'amore che giovani autori dilettanti sentono per la loro terra. Senza allontanarsi dalla tradizione canora del Friuli e senza quindi snaturarne lo spirito, queste canzoni intendono inserirsi nella continuità evolutiva degli antichi canti popolari di nostra gente, per poter per gradi giungere a creare la vera tipica canzone friulana dei tempi d'oggi. Non può quindi sfuggire l'importanza di questa seria manifestazione che ha avuto pieno successo, grazie anche a cantanti dilettanti pieni di risorse espressive e sincere, seppure non sempre accompagnate da una perfetta tecnica vocale. Ascoltate dunque queste canzoni che vanno ad arricchire il nostro cospicuo patrimonio canoro, brillantemente presentate da Nevio Ferraro e da Antonietta Parossini ed accompagnate dall'orchestra diretta dal maestro Alberto Casamassima. Anin Anin Insieme di Guido Michelutti e Virginio Ferruglio, prima canzone classificata e cantata da Helga Chiussi. In cima alle montagne, a lei un bel paesotto, lassù è la cuccagna, lassù a lei di dotto. Nessun al paio stasis, nessun va a lavorare, di verri se disgrassis, ma non c'è febbella. Anin, anin, insieme, lassù in quel paradis, io sì. Pri primavera in quel feliz país, anin, anin insieme, lassù che fa l'amor dall'alba. Lassù nessun tempieri, nessun l'è mai malato, e che il beati miei alle sempre mi va, caiuno me fastidis, alle un quarante volte, in pas non si può vivi, fasinduci il fagot. Lassù in quel paradis, gli sempre primavera, in quel feliz país. Anin, anin insieme, lassù. Dall'alba fino a sera, le lune che gran lassù che fa l'amor dall'alba. Nell'interpretazione ancora di Helga Chiussi, eccovi la canzone seconda classificata, dal titolo L'Aligrie, di Ottavio Paroni, su testo di Pietro Someda De Marco. Hai girato, hai girato alla me case, cento sant a flanc sot vos, l'allegrie l'è rivat il mio moros, l'allegrie Soy corrude sulla parte, tutto al mondo all'ier in flor. Sol casate, vai cantar a plene voce. Benedet sì il Signore, l'allegria. Galdino Turco canta Cil dai tiei voi, di Dino Virgili, musicata da Sergio Vaccari. Sore serre iene stelle inci, in un paese lontano ancora sì, io ai tal curci è un biele paese, curisi di thank you. Fruteme è il titolo della terza classificata. Le parole sono di Beppino Lodolo e la musica di Bruno Degano. La canta Beppino Lodolo. Tesoro, il sorelli a lei va. Routine, malto balcon lei mossierà. Su sveiti ninine, non sta più in fai. Mi trame la voce, tal diti bundi. Frute me non stava e. Se io voi lontano a fa fortune, la metti a rei e culè. Tu sei stullo sur di lune, se domani sarai lontano, al nostri amor o vivarai, non svivit la monte il plan. Ma per te o vivarai, e anche tu viv sol per me, che io voi lontan senza di te. Arrivio di sì amore, o tornerai che stessi a rade, par non torna via mai più. E resta sempre con te. Anche tu vi sol per me, che io voi lontan senza di te. Frute me non stava e, o tornerai che stessi a rade, par non torna via mai più. E resta sempre con te. Ascoltate infine questa stupenda romanza cantata fuori concorso dal basso Alfredo Mariotti, dal titolo Fra cure stelis di Pietro Someda De Marco, musicata da Ottavio Paroni. Stir! se come un sgriso dalle firmame. Abbiamo trasmesso la prima puntata del Festival 1962 di Pradamano a cura di Ermete Pelizzari.